ci vogliamo svegliare, sì o no? Perché c'è gente addormentata? Ma cosa vuoi, sei tutta la mattina? Cosa vuoi? Già sono una cuta e ci dato. Vai, cosa sei svegliata? Se stai dormendo anche adesso in piedi, come cavalli, ma cosa stai a dire, per carità? Io mi sono alzato alle 8, sono le 10, dunque sono bello sveglio. Mi sono preso un caffè, ho fatto colazione, per cui tu svegliati, giovanotto! Sì, già è una cuta e so che ci dado giù. Veramente sì. Buongiorno e buona domenica comunque. Ti ho sentito, allora ho fatto la battuta. Ciao Natalì. Aspetta che c'è un altro amico. Avanti, chi era quell'altro amico? Forse Porto Torres? Ma che da bravi, buongiorno. Ciao Mattarino, ciao Giulio. Oh, ciao Franco, caspita. Ogni tanto ci si presente, è la ora. Come va Franco? Bene, bene, bene. Se bene così si muore, Giulio. Natalino, e allora, piccolino sì, in mezzo al QRM. E guarda se il metro l'ho tirato adesso. Adesso sì. Quando vuoi tu lo sai tirare bene. Ma non vedi che va a per risparmio, Natalino. Natalino va al risparmio. Perché se no si consuma il microfono, si consuma. È quello che fa Franco. E allora, poi... Se lo consumi poi lo devi ricomprare nuovo, ed è un botto. Lo so, però è un sistema buono per muovere l'economia. Almeno quello vale. Vero Natalì? Io invece temo di disturbare, ecco perché vado al risparmio. Capito, vabbè, ma già siamo di mattina, non rompo le scatole a nessuno a quest'ora. Digliela quello che si deve ascoltare la messa, di andare in chiesa ad ascoltare la messa, anziché ascoltarsela alla televisione. Non è questa cosa, che è pitina, se no il prete si offende e si arrabbia anche. E infatti, ciao Fra, buona domenica comunque, ben sentito. Ciao, buona domenica anche a te. Dai. Ancora quel problema c'hai Natalì, mamma mia, c'è un affacciamento, via di. E pensando bisogna che durmi in campagna. Oh, non sarebbe una brutta, una cattiva idea quella, non sono in campagna, ma un po' sei dall'altro, tutti e due. Una gamba in un posto e una gamba nell'altro, Natalì, non va bene così. Aspetta giù che è venuta gente. Mandali via gli ospiti, non è accettare, che oggi è domenica e mangiamo troppo di domenica, vero Fra? Allora, io mi devo allontanare un secondo perché mi devo prendere il caffè, devo scendere giù a prendere il caffè, a fare colazione, perché mi sto alzando. Coralino. Buongiorno, buonissima, allora se pesatini. Allora, signore. Va bene, dai, ti lascio con un attimino che mi sta chiamando per il caffè. Ti lascio con Giulio. Avanti giù. Ok, ciao Vanni. Ciao con Giulio, hai compreso Vanni. Lui giovano è cracco e allora se ne pesantaggia lo mangiano. Buongiorno. E anche a Natalì, ormai capito, lascio un prostato e quindi è tranquillo. Infatti, il suo era. Però vabbè, non è stato. Non fate fare una cosa buona che ti fate deposare un travagliatore, però allo stesso tempo lo fate diventare mandroni, manco io penso che sia così, perché uno una volta che ti anda in pensione e comincia a deposarsi il gruppo diventa mandroni. E è un grido. Natalia, rientrato sì. No, Natalia non si fa bene con gli ospiti. Ha ricevuto ospiti, Vanni. Caipitina, non è possibile. Non è possibile che tagliente, è troppo dato se ne besano Manzano. Vabbè, comprendo che è un po' di prescritto, ma però insomma, sanitariamente bisogna essere un po' più chiesto, ma quella la di pari più lunga. E vabbè, comunque, è toccato a noi travagliare, abbiamo travagliato volentieri, ci siamo fatti male, ci siamo fatti con il travaglio, siamo cresciuti, un bel... E beh, fra, come sto caffè e bito dirai? Oh, ancora non sarà bito, ancora in viaggio, che sono caffè, che è pitina, non lo so, qui. E beh, e tu Vanni, tu ancora non ci sei in pensione? Giulio! Cosa? Mi manca a me. Hola. È già tu scelto. Aspetta, che tu eri nata lì facendo ora, che stavo parlando Vannino. Ripeti Vannino, ancora adesso che te ne manca, molte te ne mancano. Se succede tutto un 6 anni. E poi cambiano, Sì, ma se devono cambiare che cambiano a favore del lavoratore però, non contrario, questi solitamente fanno questa gente. Riprendi Natalì. Chi era che stava modulando poc'anzi? Non ti sei accorto che stava modulando Vannino? Avanti che sì? Avanti fa vita, lui. Vabbè. Guarda che non ti sto sgridando, era solo stato un errore, lo capisco benissimo. Per cui se hai voglia di entrare, buongiorno a te, buon caffè se non l'hai preso. No, non a gara, bacio Ruglio si è fatto lì tu, Vanni, si è fatto un bacio Ruglio. Non è un problema, ragazzi, parlo pure di qui. Allora, fate facciamo il PC, vediamo cosa è, anche se non è nudo, la facciamo tutto. Un po' di tempo che lo facciamo le lati. Allora, un po' di tempo, no, già lo grido, ci mancherebbe. E così, fanno scaldare bene tutto il giorno, intanto oggi è giornata brutta, non si può nemmeno uscire. E dove vai? Sta piovendo, anche se è una pioggerellina leggera, però magari aumenta anche. Forse va per il bianco. Faccia come meglio fare, intanto prego fa finita, se fate di più più poco. Ma allora, sei che mette un po' lungo, un po' qualche vino, fa enorme. Speriamo che funziona anche l'affitto, va. Io credo che devi funzionare tutto, ma la gara, anzi ve lo dico in italiano, ma la Puglia, per forza deve funzionare, che è pittina, ci mancherebbe altro. Vabbè, cosa vai a fare il teatro da Gembo, dove vai, dopo un po' di tempo esci nei puntini, non credo che tu vai a fare il teatro, vai a roba migliore. No, anche un 140 per la Gembo, però... Se la usiamo proprio sempre bene, e fate quello che sto usando adesso. Quindi, no, vabbè, no, non mi lamento, va. Solo che effettivamente, vabbè, ma questo può, allora comunque funziona per bene, solo per cantare lì. Ma se gli ha messo il batticamino, ma no, poi oh, vabbè, ho capito che attivo già qua. No, non hai messo un batticamino, si arriva in 9.5, sta arrivando, la radio è perfetta, per cui meglio di così. Questo è un segnale dato col 44 comunque, e dunque dovrebbe essere anche giusto. 9 più 5, vabbè, magari di casa ha metabolo qualche cosa, visto? Ma in culo glielo dice a me. E quando sei arrivato con me? Ah, io ho finito il 30, però ero a Roma, fatto il dito. E adesso ho finito, non rinnovo, anche se volevano rinnovare per l'inverno, ma non me la facevo, perché non mi interessava continuare comunque. Ma adesso mi faccio un po' di vacanze a casa e poi vivo. E poi a gennaio, febbraio. Ecco, va bene, va bene. Avanti Giulio. Ok, fra, ho visto che Vannino dice che abbiamo la stazione ferma un po' di tempo, avanti fai di casi e andare, capita, mi sta arrivando praticamente con lo tuo stesso segnale, perché siete più o meno simili in quanto a segnale. La radio poi è perfetta per entrambi, non c'è problema. Alla grande, tutti e due. Vai ancora, Vanni. Giulio. Se vedi che arriva un dottor Gaspari, mi preoccupi della cosa, eh. No, sto uscendo, è freddo ancora, sta uscendo, l'avevo appena acceso poco fa. E ancora, non mi sto dando qua. Tu avrai una guardia di fatti, perché che vanno bene, va, con la arrivi 7 volte, mica già. E infatti, no, io mi sto dando 5 watt, mi sto dando 5 watt a portante muta, 5 è qualcosa parlato. Devi andare, fregatene, va bene, portante arrivati. Comunque anche quest'anno è stata pesante. Ma pesante a vero, però mi pare sia ora di finirla con questi contagi. Anche ieri c'è stata una marea di contagi, morte, miseria. La pesantezza della vita è proprio quella. In questi ultimi 2 anni si è massacrata, non ci lascia in pace, no. Non è possibile. E vabbè, ci vacciniamo anche per la terza volta. Se l'esigenza lo richiede, bisogna fare anche quello. Farmaco io lo posso. Vai fra. Andate a Romacchi, andate invece di stare in radio. Lo prendeva la destra, invece di crescere. Anche da ciò che invece stare in radio. Oi, meno vino, più forte di Sassari. Ciao Claudio, avanti. Magari, sono stato più forte di Sassari, sono stato in ordine. Buongiorno a tutti e buona domenica. Alla pioggia, all'acqua. Piove. Greco? Registrato Greco. Buongiorno, buona domenica anche a te. Avanti. Vanni. Ciao Gabriele, è una volta di che era forte, là, in vicenda. È vero Vanni, prima la mia voce. Allora invece la vecchiaia carrogna. Avanti Breck, buongiorno anche a te. Buongiorno, un controllo di radio per cortesia, sto provando un microfono, un MB4. Ecco, cuoco, ma io non ho tempo la BD, hai capito bello bene. Santiago 9, Radio 5. Uomo ne sarai tu e anche Pedivella. Va bene, tu c'è motocarro, senza gomme. Vai Giulio. Sta andando bene anche con l'MB. Andava bene, non c'è problema. Poi mi te lo danno a controllo, te lo danno gli amici di Sorso che sono più lontani, per cui è più importante quello, è più interessante. Avanti Vanni. E ancora che ti controlla il gemmo. Va bene che dai che sta là, non guardi. Beh, Cario, dice che sempre a zappa in mano, va. Allora, andiamo a dire che la zappa, non mangio la zappaia, non fa niente. L'erba è che ogni tanto vuole la zappa, però la zappa l'altro giorno va con l'erba che prendi, sta di nuovo crescendo, però già va bene, dai. No, sono per farmi un po' di spesa, ma nella strada ho visto che c'è il mio vicino raccogliendo lumache, grazie. Beh, lascialo qua, meglio così. Almeno si mangia, e poi le macchie adesso sono buone. Ma cosa stai combinando? Niente di grande. Niente. Lunedì ho un colloquio con una persona, poi ti dirò, perché voglio rimettermi un po' in gioco. Sono troppo fermo, troppo assintato. Inizialmente mi sono occupato a pezzi qua, perché c'era un sacco di cose da fare. Adesso le cose da fare sono diminuite e ti dico che mi sto un po' annoiando, quindi sto cercando di rimettermi in gioco, di fare qualche cosettina, vai. Ehi, almeno ti vedi la ruggine a classe e poi non riesci a muoverti, perché la vecchiaia avanza e non si è più allenati come prima. Va bene, dai. Prego, fai il caffè. Sì, tutto a posto. Sai cos'è il problema di Claudio? Che lui, come è entrato lì, la prima cosa che ha fatto, il terreno l'ha fatto tutto in cemento, stanno in maglia. No, fra, no, assolutamente. Un attimino, Assolutamente, no, quando sono arrivato era tutto fatto, non è che dovevo in tuniga e fa, è che c'erano delle cosettine da finire, me le sono fatte assieme ad altri, basta, le cose insomma necessarie, verniciare, fare, piccolezze, però come diceva Nino mi sto accorgendo che stanno iniziando troppi dolori, e allora devo iniziare a muovermi, siccome mi ha contattato un carissimo amico che diciamo vabbè, eccetera, adesso vediamo, no? Quindi devo vedere, vediamo un po' di fare qualche cosa, almeno la mattina, almeno 4 ore la mattina, vediamo un po', ok, avanti a chi tocca. Ok, fai una cosa, comprati una tuta, se non ce l'hai già, e ti fai una passeggiata tutte le mattine verso la parte alta, magari sfrutti anche la strada nuova che c'è lì dalle tue parti, per arrivare in quel paese lassù, e vai alla passeggiata e sei a posto. No, te ne mettiani, non ci sono marciapiedi, non c'è niente, camminano che riesce a arrivare anche se è strada, ma stai scherzando, no, ui, già ce n'è posto a camminare qua, ma non è problema di camminare, è problema proprio di muovere le ossa, non solo le gambe, muovere le ossa, braccia, tutto, insomma, fare attività lavorativa, capito Giulio, perché mi sto troppo veloce, quindi adesso vediamo un pochino, dai, va bene. Non manco un manzano, così un paio d'ore, 2, 3 ore, 4 ore, insomma, quello che me l'ha chiesto, adesso vediamo se posso aiutarlo, ci dobbiamo vedere domani. Avanti, Natali, ti prendi tu, vai. Dai, che sto facendo cose, è venuta gente qua, non posso modulare, dai, più tardi, ero in ascolto. Gaffa, vai Vanni. Già Natali, va bene così, dai. E comunque tutta non tutta, secondo me allenarsi prima con la zappa piccolina, no? E poi iniziare a usare quelle più grandi. Non l'ho mai trattato, per cercare il travaglio di zappa, assolutamente, non è una cosa che mi attira molto. Invece scubertore, altre cose, sì, ma zappa doppio non l'ho mai trattato, non l'ho mai trattato, anche perché qua non ce n'è bisogno di zappa. Qua c'è il tratto, mi raso quello, mi ho cominciato tutta la recezione, mi sono finito lavori, altri ne sto facendo, dove ci potete di recuperare la qualche urana, insomma, cosettine del genere, però non c'è più niente da fare. Adesso vediamo un po' di andare avanti gai e gui. Caro Giulio, è così. Claudio, ma da quando ci sei tu mi hanno detto che lì non sta crescendo più erba, né la sei tagliando in signoria a mangiare la sera, sempre tutta l'erba ci stai tagliando. Caspitina, lasciali anche un po' per qualche pecorella che passa di tanto in tanto, da quelle parti ci sarà qualcuno, adesso per il Natale che ne alleva qualcuno, se la fa ingrassare, per avere un bel agnellino per il Natale. Lascia un po' di spazio, un po' di, per l'erba anche, o Claudio, non mi ha tagliato tanto giù. Franco, ti ha avuto la vista che non è più erba in dita di Claudio, tutta nella tagliata. Nella tagliata, se tutto non vai a cemento non crescono, e poi inizia a fare Claudio, se non venna terreno, si va sul cemento. La venna a terreno, la venna a terreno, un bel bugiardinetto, la buia di virà, capita, sei sempre in moto, che tu taglia erba, sempre in moto, è sempre a verde, boh. Allora finisce questo babulo di spazzoli di che tu taglia erba, la buia tocca a buia balli, vai Fanny. Sono entrato anche poco lì, perché sento gli amici veri e quindi entro a salutare, se no manco ballante in camera, mi ribaccio. No, non mi attira più Vanni, la verità, no, assolutamente. Meglio così. E qua quello che stavo dicendo, allora io ho 200 metri quadri di giardino però a tratto, sì, ci sono delle piante, ma piante tipo alberelli piccolini, sono stati piantati quest'anno, quindi andando a Clichy per fare recinzione, e poi oltre alla recinzione c'ho altri 3000 metri, quindi non è che si muove zappati a fare una zappa, ma è tutto macchia mediterranea, là ce l'hai, già stati ben usciti. Vabbè, dai, no, io stavo scherzando, niente, però beh, una cosa, ma non va a vedere se l'hai fatto io. Ma tu appena giù che arrivi tu, giù sono i mobili di Trento, la prima cosa che ho fatto fare quello, e ti dico che ha lavorato tantissimo quest'estate, ma anche in giornate basta che non piova, già si può fare. Pensa Franco, pensa che ha posto la massa a terra in un barbecue, ha posto l'antenna, ha posto la massa a terra attaccata al barbecue, in modo di dire, così hanno fatto, non penso niente, né da una parte né dall'altra. E non l'ha fatto voi? La massa a terra, no, massa a terra di avrei. C'è Picchetto a 2 metri sottoterra con i ganci, e lì ci ha attaccato la massa a terra della casa. No, la verità non ne ho avuto manco bisogno delle radio, assolutamente, anche vabbè, l'impianto è tutto nuovo, l'impianto elettrico, è tutto fatto bene, cavi grossi, prese buone, tutto a regolarsi, però già c'era massa a terra. No Giulio, non a Giubbolto, no, come il cubicio è fatto apposta, e poi al testa di petto, in modo che non pincini ne manco. E che fai direttamente giù dalla graviglia a bocca, perché se no ti do cancellate, e nel frattempo la geniera della banca non funziona, invece cosa succede? Quando vai, casa a casa, dalla graviglia a bocca, andiamo via. Vanni, vedi la regata che sono. Visto che c'è anche la depressione, ormai c'è la ruggiretta, capito? E quindi bisogna che invece un po' le cose. E beh, ti volevo dire, Claudia, non ci abbiamo mancato di tutto, nulla, ha dato tutto, no? Sì, beh, la direttiva quella grande corrottore, l'impianto più grosso l'avevo venduto a Piacenza, la radiomatore di Piacenza, l'ho venduto rotore, gabbia, solo il mazzo mi era rimasto, e l'altro elemento era il capo doppio, quella lì, 10-15 e 20. Poi il dipolo, quello ragno, 15 e 20, quello ce l'ho, però l'ho regalato a Roberto, siamo in attesa che solo deve piazzare. Poi la 5 elementi dei decimetri, quella lo stesso l'ho fatta, ho fatto tutto. Poi mi ho venduto le 3 radio grosse, quelle HF, della ICOM, le 2 ICOM e IESU, poi mi ho venduto il COSO 780, VU base, ho venduto il 275H, ho venduto il 910H e mi ho venduto il roba. Ho venduto il 756, quello tuo, quello che avevo comprato da te, che l'avevo fatto mettere a disposizione nuovo, poi l'avevo venduto e mi sono tenuto i 3K, i 3 Kenwood, più c'ho il 757 della Yaesu, il Galaxy, e poi vabbè c'ho le due luci, da sempre c'ho un base 790 VU, ma non ho manco attaccato, non mi interessa. Ho capito, anche se è alleggerito, va bene così, ci vuoi fare, quanto alla fine sono gli usi, invecchiano da su, andare, va bene, io mi sono messo qui 5 minuti, e se stavo vedendo, faccio due cose più, ascolta, ecco, messo sempre qualcuno per salutare. A me mi è rimasto tutto, perché intanto non ho dato più niente, però subito non ho capito cosa fare. Allora, mettiamo questo anche molto, non c'è più nessuno in due né uno, solo una caessa, vabbè, non ne parliamo, una caessa che è sempre presente comunque. Andare, adesso vedi, la 27 non sotto il piano e qui ne siete duro funzionare. No, va bene così, no, se voglio entrare vuole lui, già ce l'ho l'antenna, Ma c'è l'antenna sotto la Gepo, c'è la una SC50, i ponti mi arrivano benissimo, mi arriva anche l'R0, l'R7 Alfa, l'R2 Alfa, la diretta monitor nostra. Già va bene, ma non, a volte vi ascolto, a volte ascolto, ti sento a te qualche volta dalla macchina, sento Walter, Fabrizio, Marco, Domenico, quello di Coso, Paolo, già li sento tutti, non c'è ne problema, però non mi attizia, non mi attizia. Vai Giulio, vai Giulio. Ok. Illustra la nuova antenna invece a Franco. Franco, una nuova antenna senza radiali che va ottimamente bene, che sta usando Claudio anche in questo momento. Lo dico con certezza perché io mi accorgo dal segnale, perché fra questa antenna che sta usando adesso, che è solo un dipolo, praticamente senza radiali, è superiore come segnale alla Mantova. Avanti Franco. Intanto alla fine superiore che senso? Che magari c'ha molto migliore ricezione, poi in uscita cosa è? Ecco cos'è, una 7 ottavi, tu usi la antenna una 5 ottavi, è 8,50 m l'antenna, 8,50 m in alluminio, JPO, due antenne accoppiate sono in pratica, una da 8,50 m e al fianco c'è quella da 2,50 m. J-Pol si chiama Smartech J27 e non ce n'è per nessuno, te lo dico con certezza, perché ti comodo per lo 5.10 dalla Mantova. C'è una ricezione favolosa, parte da, diciamo che la sto usando anche in 40 metri, ho anche parlato, senza manca il correttore, in 10, in 15, in 20, in 40 lavora come una bestia verticale. Capito? Costa un pochino, però è una signora antenna ed è 7 ottavi, non 5 ottavi, 7 ottavi, quindi sia ricezione che trasmissione. Allora io ho commutato un 6.9 con la J-Pol, con la Mantova che è 4 metri più alta, 4 metri più alta, mi arrivi Santiago 7. Capo, no, non la conosco quella allora, non l'hai mai sentita. No. J-Pol, no. Avanti va. E a metti voi che non mi dovevo avere l'antenna, dai. Devo ancora, allora io controllarmi tutte. Questo ufficio per scelte, fai un altro discorso, non c'è niente, c'era quello, Anche se mi dici tu, però non capisco dove sta. Se si stava entrando da qualche parte, dopo vediamo cosa c'è, ecco. Bene, ancora si sente, no? No, ma no. Non l'hai mai intesa, vai, digita, c'è sempre un computer, digita, Smartech, è la casa costruttrice, Smartech. E poi scrivi J-Pol 27, J-P27 MHz e tira l'antenna, a vedere come ti è fatta, a vedere come ti è fatta, 7 ottavi sia in ricezione che in trasmissione, 5 kW di potenza, c'è il doppio del guadagno come DB, adesso non mi ricordo quanti sono, devo guardare il manuale della Mantova, ma statisticamente io perdo 5 punti S da qua, infatti mi ho commutato, tu mi perdi 2, da 9 passi a 7, da 9 passi a 7, Giulio invece è pieno, da 9,10 passa a 9,15, fatto lo pronto. Franco sta controllando il computer, così è fra. Sì. Digita Smartech, è la casa costruttrice, poi metti J-Pol 27, JP27, e poi l'antenna che c'ho io, è una bestia, è 8,50 m, 8,50 m, 2,5 m quasi in più della Mantova, stessa costruzione, tutta in alluminio, ma guarda com'è fatta, le barre che mantengono la J-Pol, praticamente l'altro stilo, che fa da direttore quello, che è il tipo direttivo, ha capito? Quella lì, guarda com'è fatta, guarda gli isolatori, c'ha già il balum incorporato 1-1, tu immagini, io ho stazionarie a 0,8, quindi neanche 1, dal canale 1 al canale 80, dal canale 1 al canale, in 40 metri, senza accordatore c'ho 1 e 2 di stazionarie sul parlato. È bella, va benissimo, va, altro che, va molto molto bene, e vabbè, dai, comunque. E tu il 27 cosa usi come antenna, o Vanni? Creo una Mantova, non mi quando c'è la tre anche attrasito, non si è chiamato, ma comunque è tutto anche per bene. Poi il resto, vabbè, il resto altre... altro tipo di antenne. Ok, quello già lo so che è anche altro tipo di antenne. Va benissimo, tanto che... No, io sto usando la Game Master, il tipo che me la becca, Game Master originale. E mi va bene così. Altre pretese non ne ho, almeno per il momento. Poi quando sono per questa vedremo di prendere questa J-Pol, così almeno miglioreremo ancora qualcosina. Ma anche se, devo essere sincero, non mi interessa più di tanto, perché a me quando mi sento mi va sempre bene. Avanti Franco! Chiappa, no, non riesco a farla io. Non lo so. No. Quanto riesci a farla? Devi digitare Smartec, che è la casa costruttrice, e poi ti dà tutta la videata delle antenne e tu digiti J27. Ecco, l'hanno da tutti, l'hanno trovata giuro. Poi se vai su YouTube c'è il filmato che ho fatto io, che ho mandato al venditore per tutta l'Italia, mi pare che ce l'ho solo io in Sardegna questa antenna, perché non ne ha mandato neanche una. Lui l'ha un pochino rimodernato il filmato, che fa vedere proprio tutta l'antenna, come è stata montata, come tutto, capito? Un altro mi fa, scrivi solo, anche se la mette devi scrivere J-Pol, e cioè in lunga pole 27 mega, se poi basta, si appare, l'ho aperto anch'io adesso, in questo momento, la sto guardando, se non se vuoi te la mando, mi non è un problema. Vai Vanni. Beh, ragazzi, mi ero qui addosso, però sto facendo un video che devo mandare a una persona. Vabbè, signori, sono qua comunque. Vi saluto, buona domenica. Avevo un nuovo servizio. Vabbè, un giorno sono a casa e attacchiamo qua. E così ci vediamo, magari prendiamo un caffè. Ok, aspetta, spegno il porto perché mi sta entrando dentro qua, ma ci sono più sbagliato. Ragazzi, signori, buon divertimento, riprendi il traffico. Sono questa settimana sono a casa perché devo togliermi la caldaia che ho e metterne un'altra. Quindi, bene o male, sono a casa. Ciao a tutti, buona domenica. Ciao Vanni, già ci vediamo allora, dai, che sei a casa. Ci sentiamo tra le prossimine. Avanti Giulio. Ok, ciao Vanni. Grazie della chiacchierata, dai. È sempre un piacere, ci sentiamo. Avanti Claudio. Sì, ciao Vanni, c'è stato un break, adesso lo faccio passare. Ciao Vanni, un abbraccio, chiamami quando vuoi, non c'è problema, ci vediamo. Avanti break, buongiorno. Buongiorno a tutti, dai, dottor Rum. Io la stavo guardando Claudio, questa J-Pol 27. Se è una doppia antenna, praticamente c'è uno stile lungo e uno più corto. Esatto, sono due antenne. Si chiama J-Pol per quello, no? Sono due antenne. Una da 8,50 m, poi ci sono le barre che accoppiano la seconda, il secondo stilo, e da 2,50 m. È una bestia, pesa poco, pesa 7 kg e qualcosa, non è pesante, lavora molto bene, quantità vento a uffa, perché sono due antenne, tutta la metà è doppia, quindi è impossibile spezzarla, flettono solo gli ultimi due pezzi di su e basta, però tiene abbastanza bene il vento. Io qua è molto alto come livello dal mare, il vento c'è, peggio di quello prima, però l'antenna è bassa, è 4 metri. Se tu consideri che l'antenna alla mantova è a più di 6 metri, gli ributti mica 4 metri più bassa, gli ributti 5 BTS, ho detto tutto, comunque vedete voi. Io l'ho sperimentata e ti dico che sono entusiasta, la mantova rimane con lei perché non la tolgo, anche perché è comodo con le altre radio, però questa ce la mangia nuda e cruda la mantova. Ma la mantova è a tutte le altre antenne della 27. Franco, ciao Gianni, Franco, guarda che te l'ho mandata sul telefonino, su WhatsApp, se non l'hai trovata guarda il telefonino. Ciao Gianni. Ciao Giù, ma non ci vuole nulla per trovarla, basta che vai su Google, prendi il microfono e dici J-Pol 27 e te la dà subito, come ho fatto io. Quello lì filmato l'ho messo io, l'ho fatto io filmato. Ah, quella che c'è? Sì, sì, l'ho fatto io, l'ho mandato al venditore e lui l'ha messo su YouTube. Ok, io ne ho trovato uno di filmato anche, che c'è una persona che la sta promozionando questa antenna e ringrazia, dice, Vittorio, che pure ha detto il cognome anche, già me lo ricordo ma non lo dico, per avermi dato la possibilità appunto eccetera eccetera di farmi conoscere questa antenna, una frase del genere. Ho trovato quel video io anche. Quello lì è Vittorio, quello che ha riparato l'antenna a te, quello che l'ha venduta a me, insomma, il nostro tecnico, quello lì è diventato l'unitario ufficiale per tutta l'Italia. E il continente, sono entusiasti, ne sta vendendo uffa, infatti l'ho telefonato venerdì e gli ho detto di mandarmene un'altra, così la tengo qua, gli ho detto nel caso qualcuno la vuole qua, evita la spedizione, viene e se la prende, capito? E mi ha detto non c'è problema, te la ferisco immediatamente e la tieni tu. Quando la vedi mi mandi i soldi, capito? Ha molta fiducia, me lo sai, no? Quindi me ne sta mandando un'altra. Ok, sì, qua. Appunto, questo qui che la stava illustrando, la stava promozionando questa antenna, dice ringraziamo il tecnico Vittorio, eccetera, eccetera, col cognome anche. Per avermi dato la possibilità di usare questa antenna eccetera eccetera. Bene, avanti Franco, l'hai trovato sul computer? No, sul computer no, me l'ha dato una quasi simile ma non è quella, ho visto quella che mi hai mandato tu, sì, adesso che asta, ha due antenne in pratica, ma un'altra antenna più piccola al fianco. Sì, una è 8,50 m, l'altra è 2,50 m, quella piccola che fa, oltre ad essere parte integrante dell'antenna, fa anche da sostegno al palo lungo, cioè allo stilo lungo, perché sono ancorate in due posizioni, in basso e in alto, tra le due antenne. Per cui è un sostegno straordinario, non ha bisogno di tiranti, non ha bisogno di proprio niente di niente, è un sostegno favoloso, poi è tutta in alluminio, dunque è di lusso. Bene, avanti già. Ma è fatto, l'hanno, diciamo, questo qui l'ha ripresa da poco come antenna, io non l'avevo mai vista questa antenna, vabbè, so che ha una storia questa antenna che è stata ripristinata, però è una cosa riuscita da poco. No, hai detto bene, ha una storia con l'antenna, chiaramente è stata adattata per gli 11 metri, e per diverse altre bande, capito? Però ha una storia, hai detto bene, ha una storia, non è nata adesso, l'hanno praticamente tarata, rifatta, gli accorgimenti eccetera per far sì che regionasse il 27, ma ne sta vendendo a uffa, il continente hanno tutti cambiato, guarda, non senza offesa per nessuno, mi ha raccontato proprio Vittorio, ma ha detto guarda, è che sono degli amici, quindi siccome non mi comprano solo antenne, ma mi comprano un sacco di cose, perché sono dei tecnici, quindi le ho ritirate. Ci avevano la Gilmaster, gliel'hanno restituita, ok, gliel'hanno restituita, dottor, te la restituiamo, venite usata, fai quello che vuoi, dammi quella. Hanno aggiunto la differenza e ci hanno preso la G-Port, per dirti, eccezionale, ma poi io non sono stupido, cioè la scelta me la sono fatta, io la Mantova da una vita, e quando ho montato questa l'ho aggiunto, ma non so bene, le gire clio, la Mantova la lascio, lui mi aveva già detto, guarda, la puoi anche conservare la Mantova, poi mi darai risposta, no, io la lascio. Quando poi ho fatto le prove, a te sembra che ti risolva un amplificatore, guardate che sono tanti, aumentare 5 punti S, sono tanti. È come avere un lineare attaccato. Sono tanti, ma non lo dico perché le prove le ho fatte con Giulio, io ve lo faccio in diretta, c'ho due radio, uno con la Mantova e uno con la G-Pol, ve lo faccio vedere in diretta, cioè è assurdo, è allucinante. Allora tu con la G-Pol già mi arrivi 9,25, ok, con la Mantova mi arrivi a strumento preciso del 430, perché è preciso, è stato tutto allineato, mi arrivi 9,17, vedi tu? C'ha anche un bel guadagno. C'è 7 ottavi, cioè la Mantova è 5 ottavi, forse Giulio te lo può spiegare di meno, non vedo la differenza, cioè da 5 ottavi a 7 ottavi, cazzo, c'è il guadagno, sia in ricezione che in trasmissione, capito? Perché dove sì, praticamente è quasi un'onda intera, quando sette ottavi è quasi un'onda intera, perché un'onda di sbisotto ne prendi sette parti, li sommi e sai la lunghezza d'onda quant'è, è più che chiaro, no? Mentre l'altra è cinque parti della lunghezza d'onda, praticamente. Dunque abbiamo due parti in più, di conseguenza una resa maggiore sia di ricezione che di trasmissione. È più che normale, siamo oltre, diciamo, i tre quarti d'antenna, i tre quarti d'onda, non è che no, non è poco. E poi i 5 punti S non è che li guadagni così, per guadagnare i 5 punti S ci vogliono sempre quelli 70-80 watt di potenza o Gianni all'incirca, più o meno, dai. Sì, infatti. E vabbè, comunque ha fatto un buon acquisto, dai. Che te l'ha consigliata, Claudio? Lui è nato tutto in una maniera un po' particolare, perché non ci sono problemi a dirlo. Io gli avevo mandato il 430 assieme a quello di Giulia, il 440, per fare dei lavori, per fare allineamenti, c'erano delle spinette da sostituire, per farmelo tutto a nuovo. Ok, ha fatto quella di Giulio prima, perché ha detto beh, priorità al 440, perché non ne ha altre, c'è solo baracchini, quindi le serve questa radio, io già ne ho altre. E così è successo. Quando poi praticamente ha messo mano alla mia radio, si è accorto che le mancava un filtro, okay, che è quello necessario della M. E quindi mi ha telefonato, ha detto Claudio, così, ho detto, boh, non lo sapevo, ho detto, vabbè, mettiglielo, non c'è problema. Dimmi cosa ti devo mandare, e così me lo compri, me lo piazzi. E poi non mi ha tolto piedi, perché non ha trovato il filtro, e quindi le sono rimaste le mie 100 euro. E mi ha detto guarda, io il filtro qua non lo trovo, la radio a posto, manca il filtro, te la mando e ti arrangi tu. Però lui aveva già le mie 100 euro, okay, per comprare il filtro. E mi ha detto cosa faccio Claudio, te le riaccredito le 100 euro o ti serve qualcosa? Ha detto a me non mi serve niente. Ho detto cosa c'hai, c'hai qualche MC60, c'hai qualche strumento buono, hai qualcosa? No. Ti propongo una bellissima antenna che ho preso, la concessione, proprio la concessionaria ufficiale per tutta l'Italia, proprio in questi giorni. E che antenna è? Mi ha mandato le foto, non la conosco, ma ho detto guarda facciamo così, io te la mando, tu la piazzi, la provi e non c'è problema, io non ti mando niente, poi ci mettiamo d'accordo. E così è nato, mi ha mandato questa antenna, io me la sono assemblata, tutto l'ho piazzata. Quando l'ho telefonato, ho detto, ma tu non mi hai mandato l'antenna, tu mi hai mandato la direttiva, ho detto, c'ha dei segnali allucinanti, bellissima, performante, funziona alla grande, è superiore alla Mantova, ma adesso te l'avevo detto, ho detto, facciamo una cosa ti devo aggiungere? Ma ho detto, a te, perché sei un mio cliente, mi mandi altri 80 euro, la spedizione te la praticamente te la regalo io. Ho mandato 80 euro, se no ce ne vogliono altre 100 più 20 di spedizione. Con 180 euro io mi sono tenuto questa antenna. Così è nato. Vabbè, se ti serviva, fatto bene che te l'ho presa. E poi se è così performante, e poi più in là si vedrà se ne vorranno altre anche qua. Magari c'è qualcuno che deve cambiare e le la consiglio. Guarda, io adesso me ne sto facendo mandare un'altra, me la manda. Me la manderà sicuramente lunedì, la spedisce. Sono usciti venerdì. Molto probabilmente serve a Francesco Uranio. A Francesco Uranio, io la tengo qua. Se poi le serve, gliela do. Quanto la fa a me, io la faccio a lui, no, non mi interessa, io non sono un venditore, non ci devo guadagnare niente, capito? Però ce l'ha già qua, e quindi se la vuole, siamo anche vicini, noi che siamo molto distanti da me, Francesco, quindi viene e se la prende. Poi, se le volete, io vi passo il, perché non voglio mettermi un metro con nessuno, io vi passo il numero di telefono di Vittorio, lo chiamate e ve la fate mandare. Però vi ripeto, si mangia tutte le antenne della 27, ve lo dico senza nessuna presunzione, se le mangia tutte, Mantova compresa, proprio se le mangia, se le inghiottisce. Va bene, dai. Io per il momento c'ho questa qua che sta andando abbastanza bene, quindi non la voglio cambiare, ma più là se dovesse servirmi so già che l'antenna va bene, quindi va bene, là riprendi Franco, buongiorno, non ci siamo manco salutati. Capo, è davvero, ciao Gianni, buongiorno. No, è una bella antenna, adesso ce l'ho nel computer, è una bella antenna. Ma cosa fa? Sono 27 fa quella o altro anche? Quella è nata per gli 11 metri, però ti ricordo, è un'antenna molto larga, molto larga. Come tecnica praticamente di bilancio parte da quasi 21 mega e fino a 30. Quindi vedi tu? Capo, sì. No, è una bella antenna. Come è posizionata anche? Non ha radiali, non c'ha un cavo. Mai forte, non pensare perché non ha dei radiali, c'ha un piano di massa allucinante. Quella è l'unica antenna che tu la metti, non hai problemi di qualificazione. Io quando l'ho assemblata l'ho messa in un piantone, no, un cerchio in ferro grosso, con un pezzo di tubo che usavo prima, ok, l'ho messa lì dentro, un metro da terra, ho fatto le tarature che ho fatto a terra, una volta che l'ho piazzata sono rimaste uguali, precise, identiche. Poi c'è anche scritto, se leggi, che è l'unica antenna al mondo che lavora a un metro da terra. Capo, sì. Da se la no guardando micidiale. Guarda, a me Vittoria mi ha detto, più la sollevi meglio va. Io ce l'ho a 4 metri, però i risultati sono già superiori rispetto alla Mantova. Immaginati tu se la metto 6, 7, 8 metri alta. Sì. Avanti Giulio. Ok, fra. Sì, è un vecchio progetto di antenna militare, Franco, che la usavano tantissimi anni addietro, proprio i militari, per le loro trasmissioni, eccetera, eccetera, che adesso l'hanno adattata anche per questa frequenza, che come ci stava dicendo Claudio, addirittura riesce a lavorare anche in 40 metri, oltre che lavora in 11, in 10, in 12, eccetera, eccetera. Per cui è un'ottima antenna, non ci sono dubbi, ripeto, una 7 ottavi non è poco, una 7 ottavi significa quasi un'onda intera, non è poco, perché un'onda intera è praticamente, cosa sono, 8 ottavi, se ricordo bene, e dunque ne utilizzi 7 ottavi, siamo lì quasi un'onda intera, è un'antenna che è molto ma molto performante, non ci sono dubbi, è ottima, ottima veramente. Poi il solo fatto che funziona anche installata a bassa altezza va benissimo, anche quello è importante, non c'è bisogno di mettere chilometri di palo per poter usare quell'antenna, te l'ha detto anche poc'anzi Claudio, che funziona anche a bassissima altezza di palo, per cui quasi a livello di terreno, insomma è un'ottima antenna, dai, hanno fatto bene a farla, qualcosa per noi tu gli dita intanto hanno pensato di fare. Vai Gianni. Sì, no, è una bella antenna senza ombra di dubbio, anche perché è una progettazione diversa dalle altre, insomma, non ha radiali, eccetera. Vabbè, ma anche la Game Master va bene, dai, io arrivo un po' da tutte le parti con la Game Master, quindi anche questa va bene, sì, quando va bene la tengo, poi chissà come andrà a finire la frequenza, se sarà il tanto di cambiarla o no, boh, non lo so, comunque io avevo già cambiato tutto, palo, tiranti, staffe, già lo sa Claudio, ho cambiato tutto. No, già, ma la Game Master per il funzionamento che ha va benissimo. Va benissimo, capito, no, non c'è problema, però questa è superiore perché è una 7 ottavi, te l'ha già spiegato, quindi intanto come QRM è una cosa allucinante, voi immaginatevi io con la mano, ma quando c'è propagazione il segnale deve essere oltre il 9, se no non sento niente, corpo che non sento proprio niente, nulla, mentre con quella sento la propagazione che parla, ma non si porta presso il QRM tutta la mondezza, è proprio una cosa favolosa, lo dico perché, non perché ce l'ho io, ma se andate a leggere è proprio una cosa che sta entusiasmando anche i radioamatori, perché molti radioamatori la stanno prendendo per usarla a polarizzazione verticale come antenna KF. Sì. Io sto usando il Ruis, come sta arrivando con Ruis? Non so se Silicio prova. Guarda, 1, 2, 3 prova. Ma Silicio? Non Silicio, io. Se non mi metti la radio sola, ti dico qual è la differenza, con lineare non lo posso vedere. Così sola, guarda, 1, 2, 3 prova. Allora, con la GPOS 9-10 Silicio e 9 con la Mantova. Stai perdendo ancora di più. Silicio. Capito? 9-10 con la Gepol, 9 con la Mantova. Kappa, adesso provo un altro apparecchio che da molto che non lo uso. No, se c'è pochi watt quella radio 9-10 è un ottimo segnale. Capito? Però sempre perché ho la ricezione a 7 ottavi, perché a 5 ottavi i segnali, 3 Giulio è uguale, con la Gepol ne arriva quanto mi arrivava a carbonati, con la Mantova perde 5 punti. Beh, sicuramente c'è la differenza, e poi anche io quando avevi fatto quella commutazione dalla Mantova alla J-Pol c'erano 5 punti S di differenza, erano 5 a 9-10, per cui meglio di così. Ecco i pochi watt appunto che usi, come sto usando io in questo momento, nemmeno 10 watt, scarsi, sono intorno a 8 diciamo più o meno. Ho visto adesso la freccia dei watt, all'incirca 8 watt, sta benissimo. Va bene, avanti Franco. Sì, no, già va bene, perché adesso prima mi arrivava a 5, mi arrivava Claudio 5 qualcosa, e adesso tra 7 e 8 va meglio. Se io cambio con la Mantova ti arrivo 5, e ti ripeto, questa è bassa Franco, è bassa, è molto molto bassa, capito? È molto molto bassa, tu figurati che al radiale quello piccolino da 2,50 m ci arrivo con la mano, quindi è molto bassa, perché la sto ancora sperimentando. Quest'estate faccio il lavoro definitivo, ok, inserisco gli altri 3 elementi del tubo e la porto alla stessa altezza della Mantova, a 7 metri praticamente, e allora il discorso cambia. Sì. No, già va bene. E con la J-Pol come ti arrivo io a te? Con la J-Pol sì, Santiago 9, proprio 9 pieno, diciamo 8 e mezzo con picchi a 9, quello è il tuo segnale, che è più o meno quello che avevo a carbonati. Con la Mantova mi arrivi 7. Sto uscendo però con 10 watt, 20 modulati. Sì, va bene, dai. Anche io sono 10 watt e 20 modulati col 140. Sì, io sono così, 10 e 20 modulati. Niente, adesso si è scaldato un po', va bene. Avanti Giulio. Ok, avanti Antonio. Antonio, sei tu? Sì, la tua resatina. Comunque, va bene lo stesso. Sì, beh certo, sì, infatti a me mi stai arrivando 9-10, mi stai arrivando Franco, in questo momento mi stai arrivando 9-10, io sto usando 8 watt, mi proprio lascio un attimo così non vedo l'oscillazione del lago, lascio un attimo senza parlare, ecco 8 watt, sì, 8 watt, dunque va bene lo stesso, non ci sono problemi. No, non lo voglio spingere molto più di quant'altro, 8-10 watt vanno più che bene. Per sentirci, non c'è problema. Avanti Gianni. Kappa, io adesso sono col 3009, come sta andando? 9+15, perfetto del radio. Guarda, no, da me è 9, la radio è buona. Kappa, e questo qui vabbè, omologato, ecco, mi apparecchio. E col ZG, vabbè, che avevo fatto io, che avevo cambiato la capsula. questo è leggermente più alto del Rovici, non fai 15, anche a me mi stai arrivando. Questo ti aspetta a vedere quanti watt dà. Era Gianni che ha fatto la risatina di Falcone o Giulio, non era Antonio. Gianni, sei inventato la risatina di Antonio? Eia, l'ho fatta io, ho fatto Perché c'era Antonio, fa sempre così. Vabbè, simpatica risata comunque, dai. Va bene, dai. Avanti Franco. Ecco, è una lì Antonio che non ritengo più. Era certo la maglienna tutta andata. Questo è il periodo suo, Adesso col freddo lui lavora il doppio sicuramente, perché deve portare bombole dappertutto, se no la gente muore di freddo. Vabbè, meglio così, sono contento per lui, così almeno guadagnerà anche di più. Avanti qua. Sì, Gaffa, vediamo un po' ancora, ho sentito qualcosa sotto, chi è che vuole entrare? Ho sentito qualcosa sotto di te, ma non ti ho sovramodulato. Sì. No, va bene già, vi ho detto, sono tutte nuove, vanno bene. Non c'è problema, ho troppo la truppa. No, io ho un impianto 340, dovevo al cuore non prenderlo, ma lo sono preso, lui dice devo tutti e due di nuovo, e già va bene. Però questo non è l'MC60, caro Franco, questa è la Donis, la V508. No, già si sente che non è l'MC60, è diversa la modulazione tua con l'MC60. Sì, ma non è per questa, non dispiace, bella corposa, bella forte, e beh, 60 è 60, però questa per questa radio va, questo microfono va molto bene. Già è bella la modulazione, è un po' più corposa, però diciamo che è bella chiara, sente bene, no? Si sente, vero giù. Ma glielo sempre detto, lui può usare qualsiasi radio e qualsiasi microfono e la sua modulazione è sempre bellissima, non c'è problema, bene. Tu non mi hai detto niente, Flava, evidentemente già mi senti bene come mi hai sempre sentito, per cui non te lo chiedo nemmeno. Va bene, avanti Gianni. E io ho detto che Antonio è impegnato, che sta facendo un altro lavoro, sta facendo il service a gruppi eccetera eccetera, con luci, impianti eccetera eccetera, quindi adesso c'è un secondo lavoro hobby, dai. Antonio, ma di chi stai parlando? Antonio Bambolo o Antonio Riserva? Perché quello lo voglio collegare con Antonio Riserva, ha fatto luci eccetera. No, Antonio Bambolo sto dicendo. Ah, mi fa piacere questo, meglio così, dai, meglio così, che intraprende anche un altro lavoro, meglio così, sono contento per lui, figurati, già se lo merita, sei un bravo ragazzo, dai. Avanti Claudio. Ok, nel frattempo ho commutato, questo è il 430 con l'MC60, vabbè, dallo Geniari, e ti accorgi subito la differenza. Questo è più basso. Questa è la Mantova. Questa è la Mantova col 430, lo senti l'MC60. Questo è l'MC60 col 430 la Mantova, mentre l'altro è il 140 con la Gepol e la Donis. Sì, leggermente più basso. Bene, Vera, io vi lascio un attimino che devo scendere giù, devo fare una cosa, mi stanno chiamando. E ci sentiamo magari dopo, dai. Va bene, Fra, ci aggiorniamo dopo, vai Giulio. Ok, d'accordo, Fra, dopo, dai. Ci sentiamo, eventualmente se non rimango per questo, eventualmente possiamo sentirci anche stasera, se credi. Comunque qua, diciamo che adesso torniamo un attimino indietro al discorso che avevamo avanti ieri. Hai visto la Juve, nonostante la brutta partita del primo tempo e oltre il primo tempo, ieri è riuscita a vincere al 91esimo e sono contento, dai, speriamo che esca da questa crisi maledetta. Vai Cla. Da questa crisi di campionato, però, perché in Champions a me piace vederla giocare, in campionato cioè è riuscita proprio, io pensavo che crossasse Quadrado, invece ha fatto che Biro e ha avuto un po' di fortuna, se no la Fiorentina meritava anche in 10 il pareggio, secondo me. Poi il pallone è tondo, come dice qualcuno, va bene così, tre punti, deve iniziare a salire la classifica per rimanere tra il terzo e il quarto posto, per poi poter fare la Champions. Lì deve stare lei, poi se va più su ben venga, ma non penso proprio con quelle squadrone che ci sono. Oggi è bellissimo, oggi c'è Milan-Inter, quella me la guardo alla grande, perché voglio vedere il gioco di queste due squadre che secondo me assieme all'Atalanta sono le migliori del campionato. Sì, sicuramente, no, non ci sono dubbi, sono, no, anche Napoli, io ci metto anche Napoli, sono le quattro squadre migliori al momento di tutto il campionato. E mi dispiace anche per il Cagliari che anche ieri ha perso ed è sempre più in basso. Purtroppo il Cagliari quest'anno è destinato alla retrocessione, ma speriamo che si riesca a riprendersi almeno nella seconda parte del campionato, cioè nel girone del ritorno, speriamo che riesca a riprendersi. Purtroppo il Cagliari è in sul girone A e la squadra non la può fare come si deve, all'altezza di quella blasone di cui milita. Purtroppo è così, va bene. Avanti Gianni. Gianni sta cambiando radio. Molta differenza noti tu tra l'MC60 e la Donis, Giulio? Io mi sono messo le cuffie, secondo me sono uguali. No, non proprio uguali, sicuramente è un pochino più alti, i toni alti ha il 60, è più bello insomma, dai. Però anche l'altro è ottimo, è magnifico anche l'altro, non c'è nessun problema, figurati, va più che bene anche l'altro. Però il 60 è quello, è sempre il numero uno o clà. Non ne ho trovato, volevo comprare nuovo, non ne ho trovato. Ho trovato la Lunes che lo conosco, ho preso quello. E costa una vacca di una cosa 140.